sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Agguato a Belpietro, Maroni, un atto gravissimo, lui dice: pago per le mie idee. Berlusconi bufera su un video ripreso in segreto, ci vorrebbe una commissione sulle toghe, dice il premier. Golpe fallito in Ecuador, Correa liberato dai militari ma è ancora guerriglia. Messina un anno dopo, a Scaletta e Gianfilieri il resto a rischio frane, dalle inchieste nessun colpevole. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Un atto gravissimo che ha rischiato di produrre una vittima e sul quale da parte del Viminale c'è massima attenzione. Così è intervenuto il ministro dell'Interno Roberto Maroni commentando l'agguato ieri sera al direttore di Libero Maurizio Belpietro. Ad indagare la Digos di Milano, ogni ipotesi è al vaglio, ha detto poco fa il questore di Milano Vincenzo Indolfi. E Belpietro dice: in questo paese si paga per le idee. Non mi faccio prendere dall'agitazione, certo che ieri sera ho pensato ovviamente alle persone care, come è naturale e ovvio che una persona faccia, e quindi sono amareggiato soprattutto per la preoccupazione che do a loro, che do ai miei familiari. Prevale il senso di ingiustizia perché da tempo io mi domando perché questo paese non sia un paese normale dove qualcuno possa sostenere le opinioni senza dover pagare con la limitazione della libertà, con la paura, con le minacce. Ma ricostruiamo cosa è accaduto. Sono da poco passate le 10 di sera. Maurizio Belpietro sta rientrando a casa con la sua scorta. Un agente resta al piano terra in cortile. L'altro accompagna Belpietro al quinto piano dell'immobile in via Monti della Pietà, in pieno centro a Milano. Un saluto come ogni sera. E poi la porta di casa del direttore di Libero si chiude. Il poliziotto decide di fumare una sigaretta e imbocca le scale anziché l'ascensore. Fatti pochi passi, si trova di fronte un uomo armato, appostato, evidentemente pronto ad agire. L'uomo punta la pistola. Un colpo di fortuna e l'arma è inceppata. Così l'agente della scorta ha il tempo di estrarre la sua arma, esplode 3 colpi in aria che bastano a mettere in fuga l'aggressore. L'immobile ha diverse uscite e così dell'attentatore si perdono le tracce. Un uomo di corporatura robusta, riferire all'agente, alto circa 1,80 m, indossa una camicia del tutto simile a quella di un agente della finanza, forse per non destare sospetti. Se l'agente non avesse disceso le scale, racconta Belpietro, quella persona armata avrebbe potuto appostarsi sul pianerottolo, forse suonare il campanello tentando un approccio e magari usare l'arma. Non escludiamo nessuna ipotesi, ha detto il questore di Milano Indolfi. Ora la polizia lavora all'identikit che sarà pronto in giornata e dovrebbe aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. Alessio Maurizi, Radio 24, il Sole 24 Ore. Solidarietà a Belpietro è arrivata dall'FNSI, sindacato dei giornalisti italiani, e da tutte le forze politiche. Ma intanto questa mattina sul fronte politico, incassata la fiducia, il premier Berlusconi è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A far parlare, a far discutere in queste ore però un video rubato. Elisabetta Fiorito. Sì, alla sera del 29 settembre il premier ha appena ricevuto la fiducia della Camera, Silvio Berlusconi si ferma a parlare per strada con un gruppo di ragazzi e si confessa. Un registratore piccolo riprende la scena che viene pubblicata dal sito dell'Espresso. C'è accordo tra giudici di sinistra che vogliono sovvertire il risultato elettorale, dice Berlusconi. Attraverso questo accordo, questa interpretazione assurda della giustizia, vogliono eliminare colui che è stato eletto. C'è un macigno quindi sul nostro sistema democratico per il premier, costituito da questa organizzazione interna alla magistratura, e per questo motivo, spiega Berlusconi, ci sarebbe da chiedere una commissione d'inchiesta parlamentare che faccia nomi e cognomi e dica se c'è un'associazione a delinquere nella magistratura. Ma non è l'unica cosa, nel video Berlusconi racconta anche una barzelletta sugli ebrei. Il giorno dopo, ricordiamo, interverrà nell'aula del Senato per protestare contro l'intervento del senatore Ciarrapico sulle kippah. Invece, per quanto riguarda il fronte governativo, questa mattina il premier è salito al Quirinale dal capo dello Stato Giorgio Napolitano il giorno dopo aver ricevuto la fiducia anche dal Senato, un colloquio durato 40 minuti in cui Berlusconi ha ribadito l'intenzione di andare avanti. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ed Elisabetta Fiorito. E in questa mattina intanto l'Istat ha pubblicato le stime provvisorie per il mese di agosto sulla disoccupazione. È in calo all'8,2% dall'8,4% di luglio. Non varia il tasso di occupazione, mentre diminuisce il numero di persone che cerca lavoro. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi lo ha intervistato, Valeria De Rosa. certamente un dato positivo, sarebbe colpevole non rilevarlo. Negli Stati Uniti si attendono i dati mensili congiunturali sull'occupazione perché ne conseguono anche andamenti dei mercati finanziari e le politiche di governo sono attentamente tarate in conseguenza ad essi. Bene, nel nostro caso scende il tasso di disoccupazione significativamente nell'arco di un mese, non sale il tasso di inattività, cioè di coloro che sono, come si dice, scoraggiati, scende significativamente il tasso di disoccupazione giovanile, anche se rimane consistente ancora la sua dimensione. Però il tasso di occupazione non registra cambiamenti? No, registra un timido andamento positivo, cioè un timido innalzamento, quindi il tasso di occupazione reagisce per fortuna positivamente, anche se non ancora in modo significativo, ma ripeto, guardiamo tutti soprattutto al tasso di disoccupazione che è molto rilevante nell'arco di un mese, il fatto che sia sceso di 2 decimali, 3 decimali se consideriamo l'andamento medio del precedente trimestre. Ora Unicredit con il vertice che inizia proprio in questi minuti dopo la designazione del neo amministratore delegato Federico Ghizzoni. Andrea Fontana, come sta andando? È iniziata da pochissimi minuti la conferenza stampa che vedrà il presidente, che sta vedendo il presidente di Unicredit Dieter Rampel presentare il nuovo amministratore delegato Federico Ghizzoni. Non conosciamo ancora i contenuti, ma Rampel ribadirà la scelta unanime da parte del consiglio di amministrazione sull'indicazione del nuovo manager piacentino di 55 anni, da 30 al lavoro nella banca di Piazza Cordusio, e probabilmente Rampel sottolineerà queste scelte del consiglio di amministrazione e si inizierà poi a parlare anche delle strategie della banca. In una lettera questa mattina a tutti i dipendenti Federico Ghizzoni ha già detto: agirò nella linea di continuità sulle linee d'azione che già sono avvenute nel recente passato, compreso il progetto della banca unica, il nuovo modello organizzativo tanto atteso dal mercato. Ultima novità dell'ultimissima ora: questa mattina, entrando presso la sede di Unicredit, il governatore della Banca Centrale Libica, Omar Bendara, che è anche vicepresidente di Unicredit, ha ribadito come la Banca Centrale non intenda superare la soglia del 5% in Unicredit, e ha detto anche: Banca Centrale che ha il 4,9% e la LIA, il Fondo Sovrano Libico che ha il 2,6%, agiscono come enti separati. Era stata proprio questa la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, che aveva innescato le ultime discussioni tra soci e l'amministratore delegato Profumo, che è uscito dalla guida della banca una settimana fa. Grazie ad Andrea Fontana. Naturalmente ci sentiremo nel corso della giornata per sapere quali saranno le parole di Ghizzoni. Una truffa sui farmaci scoperta a Firenze ora invece. Dietro c'era un rapporto tra i camici bianchi e le case farmaceutiche a colpi di mazzette. Sentite. Il professor Torello Lotti è un dermatologo di fama internazionale, ma secondo i carabinieri dei NAS sarebbe a capo di una cupola di medici che prendevano mazzette da casse farmaceutiche per prescrivere e somministrare farmaci in modo arbitrario ai danni di centinaia di pazienti in cura per diffuse patologie croniche. L'inchiesta è partita dall'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, dove il professore presta servizio, ma si è estesa anche in altre regioni: Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto e Umbria. I medici avrebbero intascato complessivamente 2 milioni di euro. Il professor Lotti agli arresti domiciliari. Stesso provvedimento è stato preso anche nei confronti di 5 suoi collaboratori, altri 2 sono sottoposti all'obbligo di dimora. 13 medici sono stati interdetti dalla professione. Sono 21 le misure cautelari emesse dalla Procura di Firenze e 37 le perquisizioni effettuate dai militari in ospedale, ambulatori e abitazioni. Le accuse sono di associazione a delinquere e corruzione, abuso d'ufficio e truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. Ubaldo Cianciulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. La Procura di Bergamo ha acquisito questa mattina le cartelle cliniche della mamma albanese che il 30 gennaio scorso ha dato alla luce la piccola Samantha Zeaia, nata invalida agli ospedali riuniti di Bergamo dopo una gravidanza senza problemi. Il parto è avvenuto con taglio cesareo dopo 2 giorni di travaglio. Al momento il fascicolo è aperto a carico di ignoti. Un nuovo messaggio audio del fondatore di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, è comparso oggi su un sito islamico. A riferirlo l'organizzazione di monitoraggio dei siti islamici, Bin Laden non lancia invettive contro l'Occidente e gli infedeli, ma cita le inondazioni in Pakistan, denuncia la carenza di cibo e dà consigli agli agricoltori del Sudan. Non abbiamo nessun allarme particolare per l'Italia, dice intanto il ministro degli esteri Franco Frattini, commentando il complotto sventato in Europa nei giorni scorsi. Ma non è un segreto che tutti i paesi europei sono obiettivi potenziali del terrorismo. Il complotto che è stato sventato evidentemente non può essere descritto nei suoi particolari, ma evidentemente quando si parla di Europa si parla potenzialmente di tutta l'Europa, non solo di un paese. Ciò detto, non abbiamo un allarme particolare per l'Italia, anche questo bisogna dirlo. Un altro allarme però c'è per l'Europa ed è una notizia dell'ultima ora, una nota diffusa al termine della riunione informale dell'Ecofin a Bruxelles. Il mercato dei debiti sovrani può avere un effetto contagioso sul settore bancario. È il rischio rispetto al quale i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei 27 paesi europei mettono in guardia, la nota diffusa un istante fa. E altissima è la tensione in Ecuador. Dopo il tentato golpe ci sarebbero 2 morti e diverse decine di feriti. Tutto parte per l'approvazione di una legge che riduce i benefici economici e di carriera alle forze dell'ordine. Gli agenti reagiscono paralizzando la capitale Quito. Il presidente Rafael Correa allora tenta la mediazione, ma la polizia risponde sparandogli lacrimogeni. A quel punto Correa, visibilmente esaltato dalla situazione, urla «Ammazzatemi se ne avete il coraggio!». È leggermente ferito e viene portato in ospedale, ma lì dentro lo bloccano i rivoltosi. Dal telefono Correa parla alla radio pubblica. È un tentativo di golpe, dice puntando il dito contro la destra, il partito Società Patriottica e l'ex presidente ed ex colonnello Gutiérrez, già a guida di un golpe nel 2000. Quando i militari lo libereranno, Correa tornerà al palazzo presidenziale e ai sostenitori racconterà di aver detto: o esco di qui come presidente di una nazione degna di questo nome o ne esco cadavere. Per ora, il presidente socialista del XXI secolo, come ama dire, ne è semplicemente uscito vivo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una svolta storica quella che vi raccontiamo ora, perché domenica la Germania pagherà l'ultima tranche, 70 milioni di euro, dei risarcimenti bellici che il Trattato di Versailles impose nel 1919 agli sconfitti come compensazione per aver scatenato la Prima Guerra Mondiale. Si chiede un'era, in un certo senso, una vicenda che ha segnato drammaticamente il Novecento. Dario Ceccarelli ha intervistato lo storico Lucio Villari. Questa percezione che fosse un'ingiustizia si era avuta subito, al punto tale che nel 1924 gli Stati Uniti avevano varato un piano, il piano DOS, per aiutare la Germania a pagare questi danni di guerra, ma soprattutto a sostenere il sistema finanziario tedesco che era crollato con l'inflazione di quegli anni. Perché lei dice che è stata un'ingiustizia? Perché lei ritiene che una guerra scoppiata, diciamo, per responsabilità un po' di tutti nel 1914 possa essere attribuita soltanto alla responsabilità dei tedeschi? Questa è una cosa così ingiusta che lo stesso grande economista Keynes, che faceva parte della delegazione inglese alla conferenza della pace di Versailles, si oppose a questa richiesta al punto tale che si dimise e se ne ritornò a Londra, scrivendo un libro, Le conseguenze economiche della pace, in cui criticava questo atteggiamento delle potenze vincitrici, cioè della Francia e della Gran Bretagna. Anche perché poi questo debito provocò poi l'ascesa di Hitler in un certo senso. Ma certamente, fu una delle ragioni per cui i nazionalsocialisti ebbero, diciamo, un consenso popolare grandissimo, perché lui poneva problemi anche di un'ingiustizia che veniva fatta nei confronti della Germania. Le 13:18 minuti, le notizie di GR24, agguato a Belpietro. Maroni, un atto gravissimo. Belpietro dice: pago per le mie idee. Berlusconi bufera su un video ripreso in segreto. Ci vorrebbe una commissione sulle toghe, dice il premier. Golpe fallito in Ecuador, Correa liberato dai militari, ma è ancora guerriglia. Un anno fa la frana, ricorderete, nel Messinese. Un anno dopo cosa è cambiato? Ripartiamo da qui. 365 giorni ci separano ormai da quel tragico evento, ma per i cittadini di Giampilieri e Scaletta ben poco è cambiato. A parte la perdita di persone care, spesso anche di una casa in cui vivere, resta immutata la paura che quanto accaduto un anno fa si riproponga. I 139 milioni di euro spesi non sono serviti ad altro se non ad aprire qualche cantiere per ripulire i torrenti o abbattere qualche casa, ma la montagna, quella che fa più paura, resta sempre là, priva di qualsivoglia messa in sicurezza. Servono altri fondi, grida qualcuno, ma i cittadini hanno il sospetto che forse neanche quelli basteranno, mentre 87 di loro continuano ancora a vivere in un albergo. Nessuna nuova anche sul fronte giudiziario. I consulenti nominati dalla Procura della Repubblica di Messina, che sul caso aveva aperto un'inchiesta, non sciolgono ancora le riserve. Solo due finora gli avvisi di garanzia recapitati al sindaco di Scaletta Mario Briguglio e al dirigente dell'ufficio tecnico per avere nascosto alla magistratura il piano di protezione civile. Nessun colpevole, insomma, nessuna messa in sicurezza, solo l'amarezza e il ricordo di chi non c'è più. Nadia Maio, GR24, Il Sole 24 Ore, Messina. Via libera della Camera al decreto legge Tirrenia, che a sorpresa però reintroduce anche i pedaggi per autostrade e raccordi autostradali gestiti dall'ANAS a partire dal 1 maggio. Doveva contenere solo le disposizioni per la privatizzazione della Tirrenia. Con il passaggio alla Camera, invece, il decreto ha raccolto i più disparati provvedimenti. Norme di finanza pubblica, fiscali, sull'editoria. Un piccolo posticino è saltato fuori anche per i pedaggi autostradali delle tratte gestite dall'ANAS. Brutta notizia per gli automobilisti, soprattutto quelli che percorrono le vie del centro-sud, perché tra questi 1.300 chilometri su cui scatteranno le gabelle ci saranno la Salerno-Reggio Calabria, la Siena-Firenze, le autostrade siciliane, la Roma-Fiumicino e il grande raccordo anulare. Quindi, dopo lo stop del TAR, tutto torna al disegno originario. Grida lo scandalo l'opposizione con il capogruppo PD in Commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta. Una vera e propria provocazione, perché non è giustificata da emergenze di tipo economico-finanziaria ed è la terza volta che vengono colpiti i pendolari. Quando c'è stato il taglio di 4 miliardi del trasporto pubblico locale, non hanno voluto finanziare 1.000 treni e poi questa vicenda dei pedaggi. Ora, la maggioranza si è impegnata a intervenire proprio in favore dei pendolari, ipotesi che il centro-sinistra definisce ridicola perché ormai la misura è legge, sulla base di un ordine del giorno del PDL. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il mio stipendio non c'entra nulla con Fabbrica Italia, trovo offensivo utilizzarlo come argomento per rifiutare la modernizzazione del sistema delle relazioni industriali. Parole dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne parlando con i giornalisti al Salone dell'Auto di Parigi. Lo stipendio di Marchionne 4,7 milioni di euro l'anno. E a Parigi, al Salone dell'Auto, è arrivato oggi ovviamente per parlare d'altro il presidente francese Sarkozy. Andrea Malan, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sarkozy ha fatto un giro per gli stand delle case francesi e in una tavola rotonda successiva con un numero ristretto di invitati ha ribadito quello che lo Stato francese fa per la sua industria dell'auto. Ricordiamo che per esempio al culmine della crisi due anni fa ha prestato 6 miliardi di euro a Peugeot e Renault e ha anche delineato le linee guida del sostegno negli anni futuri. In particolare sappiamo che la scommessa più grossa di Parigi è sull'auto elettrica. Entrambi i costruttori francesi hanno dei modelli disponibili, in parte con tecnologia giapponese, li stanno lanciando sul mercato. Lo Stato francese ordinerà 50.000 veicoli nei prossimi due anni e darà degli forti incentivi ai privati perché anche loro ne acquistino. È una scommessa in cui non tutti credono, la Fiat per esempio non ci crede, ma anche molte altre delle concorrenti. Vedremo quindi nei prossimi due anni come reagiranno i francesi, ma anche gli altri consumatori nel resto d'Europa. Grazie ad Andrea Malan. E proprio a Parigi i costruttori hanno presentato in anteprima le auto elettriche. La Francia lancia la sfida per essere una delle nazioni a minore impatto ambientale. A Parigi già nel 2011 ci saranno 3.000 veicoli a emissioni zero da noleggiare a 15 euro al mese e 700 colonnine di ricarica. L'auto elettrica è il futuro e si prevedono quote pari al 10-15% del mercato mondiale. Con un occhio al risparmio e uno all'ambiente, la Blue Car di Bolloré Pininfarina, la coreana Kia Pop, la Mitsubishi i-MiEV e la Peugeot Ion vantano un'autonomia di 150 km. Il Salone Internazionale dell'Auto ribadisce dunque che i produttori sono pronti e lo fanno con vetture adatte a circolare soprattutto in città. Come Twizy, la Urban Car dalle dimensioni e il prezzo di uno scooter. La compatta di casa Renault sarà disponibile da fine 2011 anche in una versione da guidare senza patente con velocità massima di 45 km orari. Marco Cosenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nei primi 6 mesi del 2010 siamo con un fatturato in incremento abbastanza vicino al 20% più del 2009 ed è comunque in crescita, le prospettive sono comunque di crescita anche per la seconda parte dell'anno e ovviamente siamo più che fiduciosi per quanto riguarda il 2011. Giacinto Colucci è amministratore unico di COG SRL, azienda di Lecce del settore metalmeccanico, che dopo un 2009 difficile ha visto la ripresa proprio nei primi mesi del 2010. Fino al 2008 siamo sempre stati in incremento, nel 2009 abbiamo avuto decrementi non superiori al 30%, circa il 29%. Con 100 dipendenti e 13 milioni di fatturato, COG SRL punta molto da sempre sulla ricerca e questa è stata, secondo Colucci, la chiave di svolta anche per la ripresa del 2010. Sì, assolutamente sì, però la ricerca deve essere connotata all'interno dell'impresa come elemento strutturale, non può essere un fatto episodico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza, il virologo Fabrizio Pregliasco. Importante dire, non esageriamo nell'anticiparla di corsa, si può fare con tranquillità quanto prima e come sempre i soggetti più a rischio, fragili, possono avere... sono quelli gratuitamente la vaccinazione, sono quelli per cui è indispensabile, ma anche gli sportivi, anche chi magari appunto vuole essere più protetto rispetto al rischio dell'ambiente. Siamo un po' preoccupati perché l'anno scorso si è concentrato un fuoco di fila contro il vaccino pandemico, ma in realtà è stata una concentrazione su tutta l'aspetto delle vaccinazioni in genere, perché le negatività rivolte al vaccino pandemico in realtà poi erano aspetti che riguardavano altri vaccini e che sono stati tutti messi lì. Ed è un problema perché la pandemia è stata comunque un problema, meno male, meno grave del previsto, e ogni stagione, anche quella prossima avventura, dove avremo ancora di mezzo il virus H1N1 e altri virus stagionali, comunque sia rappresentano un problema di sanità pubblica. E a Parma questa sera al via invece il Festival Verdiano. Sarà il Trovatore al Teatro Reggio di Parma ad aprire questa sera l'edizione 2010 del festival dedicato a Giuseppe Verdi. Un cartellone che durerà per l'intero mese di ottobre con melodrammi, mostre, concerti, iniziative didattiche. A Parma si esibiranno alcune delle migliori voci della lirica: Fabio Armiliato, Marcello Alvarez, Norma Fantini, Mariana Tarasova. Oltre al Trovatore saranno in scena i Vespri Siciliani e Un'Attila Tinte Fosche. Per il ministro dei beni culturali, Sandro Bondi, il festival è un'eccellenza italiana e non è da trascurare nemmeno l'aspetto economico, sottolineato da Mauro Meli, sovrintendente del Reggio. Il ritorno economico atteso è esattamente del 200% rispetto al costo, quindi l'investimento del festival è circa 6 milioni di euro, il ritorno atteso quest'anno è circa 12 milioni di euro. Grande sostenitore del festival è Fedele Confalonieri, appassionato di musica e presidente di Mediaset, uno degli sponsor. Che ci siano dei privati che alla comunità restituiscono per la cultura o anche per altri fini, per questo mi sembra una cosa positiva. Intanto a Parma, nelle terre di Verdi, si pensa già ai grandi festeggiamenti per i 200 anni dalla nascita del maestro nel 2013. Simona Rossitto, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In regia Roberto Scaltritti, le 13:28 minuti. Ci fermiamo qui. Un saluto da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.